Focus Economia. Sei minuti, Focus Economia, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Diversi temi economici della giornata. La prima notizia è il via libera del Parlamento alla riforma della pubblica amministrazione. Molte le novità, dal taglio delle prefetture a quello delle camere di commercio fino alla soppressione del corpo forestale. Sarà questo il tema del nostro primo approfondimento. Cercheremo di capire cosa cambia e quali i vantaggi per gli utenti finali, ossia i cittadini. Ma non mancano le polemiche all'attacco con i sindacati, una riforma da bocciare, dicono CGIL, CISL e UIL, che aspettano il governo al varco. Alla ripresa, a settembre, dicono, sul confronto per il contratto del pubblico impiego, dopo la recente sentenza della Consulta che ha decretato, lo ricordiamo, l'illegittimità del blocco dei contratti. Critiche anche dalle opposizioni che dicono una riforma con solo tagli e deleghe in bianco. Ad opposizione i sindacati replica con un tweet il premier Renzi. Un altro tassello, ha approvato la riforma della pubblica amministrazione. La volta buona, un abbraccio agli amici gufi. Soddisfatta la Confindustria, per la quale il provvedimento costituisce una tappa fondamentale del percorso di ammodernamento della macchina pubblica per stare al passo con le dinamiche economiche. Un tema, quello della pubblica amministrazione, come vediamo, che crea sempre fronti contrapposti. Da che parte state? Mandateci allora i vostri commenti al 349-238-6666 oppure alla nostra pagina sul sito di Radio 24. Ed ancora parleremo come sempre della giornata di borsa, occhi puntati su tutti i mercati dopo il tonfo ieri di Atene, che tornava alle contrattazioni dopo 5 settimane di chiusura. Ieri meno 16%, oggi perdite più contenute tra il meno 2 e il meno 4% in media. Sempre cali pesanti attorno al 30% per Piraeus Bank, Eurobank, Alpha Bank e National Bank of Greece. Ma se ieri Atene era stata ignorata dalle altre piazze europee, oggi le vanno tutte dietro in terreno negativo. Uno sguardo rapido: FTSE MIB in questo momento meno 1,03, Francoforte meno 0,04, Londra in parità, Parigi meno 0,37%, Stati Uniti apertura piatta con lo Standard & Poor's che si mantiene a un meno 0,04. Mercati asiatici in ordine sparso: Tokyo meno 0,14, Shanghai più 2,45%. Altra notizia che tratteremo nell'ultima parte di Focus Economia: l'andamento del commercio estero. L'Italia dei record, titola oggi il Sole 24 Ore, battuta più volte la Germania per numero di prodotti esportati. Questo è il titolo. Una notizia questa che sorprende, almeno personalmente, visti i luoghi comuni tra il nostro paese e Berlino. Ed infine, se la Grecia non c'è bastata, il tormentone se ne sta per aprire un altro, un nuovo fronte di default, il Porto Rico. E notizia di poco fa, lo abbiamo ascoltato nel GR, la Vigilanza Rai ha fatto i suoi nomi, eletti nel CDA di Viale Mazzini, Borioni, Guelfi, Siddi, Messa, Freccero, Diaconale, Mazzucca, Campo Dall'Orto in Pol come direttore generale, ma questa casella sarà chiusa domani con le decisioni del governo. A voi ogni commento sulla Rai, questo è insomma il nostro sommario, passiamo ora alle notizie in breve. In breve, che partiamo come sempre dall'oro in lieve rialzo a 1,91 dollari l'oncia, petrolio a New York che sale dell'1,9% a 46 dollari al barile, cambi euro-dollari in questo momento a 1,095. Adesso il presidente americano Barack Obama. Il clima al centro del suo intervento: entro il 2030 le emissioni di carbonio delle centrali elettriche saranno ridotte del 32% rispetto al 2015, 87 milioni di emissioni di carbonio saranno tolte dall'atmosfera, queste le parole di Obama. poi ancora Obama, dei flash. Oggi siamo qui per annunciare il piano per l'energia pulita. Ha richiesto 2 anni, ma è il passo più importante che l'America abbia mai fatto in materia di cambiamento climatico. Nulla minaccia di più il nostro futuro e quello delle nuove generazioni del cambiamento climatico, così ancora Barack Obama. Ed infine, siamo la prima generazione a sentire l'impatto del cambiamento e l'ultima generazione che può fare qualche cosa per combatterlo. Abbiamo detto del tonfo di Atene ieri, della borsa. Ora torniamo sugli aspetti economici che riguardano sempre la Grecia, il suo accordo con Bruxelles, con i creditori. La squadra di tecnici finanziari del governo greco sembra ottimista circa la possibilità di raggiungere un accordo definitivo con i creditori internazionali del paese entro il 18 di agosto, di modo che il nuovo memorandum possa essere firmato entro il 20, lo riferisce il quotidiano ateniese Tovima, citando fonti governative, secondo cui oggi saranno all'ordine del giorno 2 questioni importanti: le privatizzazioni e i crediti inesigibili, la cui gestione è direttamente collegata alla ricapitalizzazione delle banche. Ma come sempre i guai non vengono da soli. Scioperi in Italia, improvvisi scioperi annunciati almeno per il momento anche in Grecia. Il sindacato dei controllori di volo ha confermato per domani 5 agosto una stensione dal lavoro di 4 ore dalle 14 alle 18 locali. Gli uomini radar di Atene chiedono che venga presentato in Parlamento un progetto di legge per la creazione di un'agenzia per le forniture aeronautiche all'aviazione civile, che sia un'entità indipendente nel rispetto delle norme europee. Il sindacato ha inoltre fatto sapere che se non avrà alcuna risposta da parte del Ministero dei Trasporti, lo stato di agitazione aumenterà a partire dal 14 agosto. Già immaginiamo quindi quali potranno essere le conseguenze in un momento così importante dell'estate. L'Italia con un rapporto molto importante ed interessante di Mediobanca. Per quanto riguarda la crisi, tengono i ricavi dell'industria privata, più 5%, male il pubblico, ma la notizia che sembra a me più interessante è questa: per ogni 100 euro di vendite dei grandi gruppi italiani, 34 sono prodotti in Italia, 10 consumati in casa e 24 esportati, ma 66 euro sono prodotti e venduti all'estero senza attivare mano d'opera e investimenti domestici. Questo per dire che l'export è sempre più che fondamentale per il nostro paese. Ne parleremo abbondantemente nell'ultima parte di Focus Economia, però poi bisogna entrare nel dettaglio e vediamo che parte poi di questo export non lascia ricchezza nel nostro paese. Un altro dato molto interessante che farà arrabbiare qualcuno, sempre dalla ricerca di Mediobanca: un lavoratore servono 36 anni per raggiungere i compensi dei suoi vertici nei consigli di amministrazione. Lo afferma quindi il rapporto di Mediobanca sui principali 50 gruppi italiani, secondo il quale il guadagno medio dei componenti apicali dei consigli di amministrazione, quindi parliamo di presidente, vicepresidente e amministratore delegato, è di 1,8 milioni l'anno contro i 51 mila euro dei dipendenti. Poi un aspetto del quale a Focus Economia si è parlato più volte, ovvero del minor credito che a partire dall'inizio della crisi internazionale è arrivato alle imprese. E allora, sempre da uno studio di Mediobanca, in 5 anni il mondo finanziario, le banche hanno ritirato un totale di 12 miliardi di crediti ai grandi gruppi industriali e finanziari italiani, che per raccogliere liquidità si sono spostati sull'emissione di bond per un totale di 44 miliardi tra il 2010 e il 2014. Sempre meno credito alle imprese italiane, lo dicevamo. Negli ultimi 4 anni i finanziamenti erogati dalle banche agli imprenditori sono diminuiti del 10,6%, pari ad un calo complessivo di 105,9 miliardi. I dati emergono in questo caso da una rilevazione di Confartigianato. Denaro più scarso e più costoso: a marzo 2015 un'impresa paga mediamente un tasso effettivo del 5,53% sui finanziamenti per cassa. E sono tutti questi valori che ci devono far riflettere. Se volete fare i vostri commenti, vi ricordo il 349-238-6666. Sempre in tema di credito, vi è poi una differenziazione a livello regionale: meno credito alle imprese, denaro più caro, ma con forti differenze tra le zone. Punte record in Calabria, tasso medio di interesse all'8,89%. Avevamo visto prima la media è del 5%, in Calabria si arriva all'8,89%, Sicilia 7,89%, Molise 7,68%, valori invece che vanno a decrescere andando al nord: Piemonte 4,53%, Trentino Alto Adige 4,80%. Questo per dire che il sud è vero che ha le sue colpe, ma ci sono poi anche elementi esterni che penalizzano l'economia di queste regioni. Cambiamo argomento, andiamo alle dolenti note relative all'aeroporto di Fiumicino. A parlare in questo caso è il ministro Delrio in Parlamento, che dice: c'è stata una paralisi dello sviluppo aeroportuale negli ultimi 20 anni, è necessaria un'accelerazione degli investimenti per colmare il deficit strutturale di un hub internazionale che movimenta oltre 40 milioni di persone l'anno. Possiamo ascoltare le parole di Delrio. Questi eventi hanno comunque evidenziato una fragilità organizzativa che coinvolge alcuni operatori attivi nell'aeroporto di Fiumicino, a cui va necessariamente aggiunta una debolezza strutturale che deriva da ritardi ventennali negli investimenti effettuati. Un valido piano di azioni per il miglioramento della qualità dei servizi deve considerare la gestione diretta delle attività critiche, una maggiore flessibilità operativa, una nuova gestione della movimentazione bagagli, la riduzione dei tempi di controllo passaporti, la migliore qualità dei servizi di collegamento da e per l'aeroporto, sia rotabile che su gomma. E ad oggi ADR si è impegnata a recuperare il gap non solo per eliminare il ritardo nella realizzazione degli investimenti previsti nel contratto di programma, ma anche per eseguire contestualmente tutti gli investimenti che si riterranno necessari per garantire una migliore accoglienza e sicurezza all'interno dell'aeroporto di Fiumicino. E da Fiumicino abbiamo sentito le parole di Delrio. Passiamo direttamente al primo tema di oggi di Focus Economia. Lo abbiamo anticipato nel nostro sommario. Parliamo della riforma passata oggi al Senato della Pubblica Amministrazione, quindi una riforma che ora è legge. Ho accanto a me Davide Colombo del Sole 24 Ore. Ciao Davide. Ciao Vincenzo. Davide, prima di chiedere un tuo commento, leggo velocemente. Innanzitutto, il testo è passato al Senato con 145 voti a favore, i contrari sono invece stati 97 e nessuno astenuto. Se non sbaglio, senza la presenza dell'opposizione il testo non sarebbe passato per un fatto di numero legale, ma queste sono le tecniche politiche. Per quanto riguarda i contenuti, le principali novità: arriva il ruolo unico per i dirigenti pubblici, gli incarichi assegnati in base al merito alla formazione continua possono durare 4 anni, chi rimane senza incarico può chiedere di essere demansionato a funzionario, e poi la Guardia Forestale viene assorbita in un altro corpo di sicurezza pubblica, significativa riduzione del numero delle prefetture e riorganizzazione dei ministeri, e poi il PRA, lo conosciamo tutti, passa al Ministero dei Trasporti, operazione di riordino anche per le autorità portuali e capitanerie, ridotte da 105 a 60 le camere di commercio. Prima di un tuo commento, Davide, lo dicevamo nel nostro sommario, critiche da tutte le parti, dalle opposizioni e soprattutto dai sindacati. Allora partiamo proprio da questi ultimi, da Antonio Foccillo, segretario confederale della UIL con delega al pubblico impiego. Sentiamo cosa non va di questa riforma. Non è una riforma intesa per migliorare la pubblica amministrazione, è una riforma che parla di tutto e di più, toglie alcuni controlli come quelli del Corpo Forestale dello Stato e restringe gli uffici periferici del governo, fa qualche cosa di positivo per la dirigenza anche se propone licenziamenti, però quello che manca è un piano di investimenti in infrastrutture, cioè in innovazione, in ricerca, e un piano di investimenti per la formazione del personale e la valorizzazione del personale. Ecco, ma dal fronte del governo si ribatte che razionalizzando le spese, quindi per esempio il corpo forestale, ma anche rendendo più efficienti i quadri dirigenziali, si possono recuperare poi quelle risorse per rendere tutta la macchina organizzativa più efficiente. Cosa ribattete? Ma io credo che quando si fa un'affermazione di questo genere bisogna non essere generici, ma valutarlo nel concreto. Il Corpo Forestale dello Stato era l'unico corpo che combatteva l'ecomafia nel nostro paese. Allora spendere dei soldi per combattere l'ecomafia e tenere l'ambiente sano credo che sia un fatto positivo e non negativo, e che i cittadini avrebbero tranquillamente accettato. Quello che non si capisce è che dovrebbero andare in un corpo di polizia che ancora non si sa, e soprattutto con quali funzioni resteranno in quel corpo di polizia, col rischio di perdere una serie di professionalità e, come dicevo, di controlli. Poi se si vuole effettivamente andare a ridurre gli sprechi che ci sono alla pubblica amministrazione, noi a Cottarelli allora e oggi possiamo dire a questo governo abbiamo una serie di proposte che abbiamo già fatto. Alcune, per la verità, Cottarelli le aveva condivise. Per esempio chiudere con le consulenze nella pubblica amministrazione, per esempio aggredire tutte quelle sprechi che ci sono nelle municipalizzate dal punto di vista della politica, in parte sono state riprese in questa riforma. Quindi ecco, le vostre proposte sono sul campo, ormai però la riforma è legge. Cosa si può fare a questo punto? Ci sono ancora dei margini di intervento o la battaglia adesso a questo punto si sposta sul rinnovo dei contratti del vostro settore? Ma intanto ci sono da fare tutti i decreti attuativi, sono un numero elevato e perderanno anche molto tempo per farli. C'è la possibilità di intervenire. Poi è chiaro che la battaglia dei rinnovi contrattuali è una battaglia che bisogna avviare immediatamente. Abbiamo anche preparato già le piattaforme, c'è la sentenza della Corte che dice che dal 2015 bisogna rinnovare i contratti, ci vuole da parte del governo la volontà di aprire questi rinnovi contrattuali. E così dunque Antonio Fociglio, segretario confederale UIL con delega al pubblico impiego, sulla riforma approvata oggi della pubblica amministrazione. Davide Colombo del Sole 24 Ore. Fociglio dice si poteva fare di più e soprattutto si poteva puntare ad una razionalizzazione diversa. Non sono questi gli interventi necessari? Un primo tuo commento sull'intervento di Fociglio. Ma dunque la posizione sindacale è molto concentrata sulla parte, diciamo, di riorganizzazione delle amministrazioni che coinvolge naturalmente il personale, evidentemente i trasferimenti di personale che innescherà, e dall'altro lato sul fronte del testo unico per il pubblico impiego, la riforma della dirigenza, sappiamo che sarà un decreto legislativo unico, verrà fatto un nuovo testo unico che aggiorna quello del 2001. Loro, dal loro punto di vista, necessariamente considerano questo passaggio di nuova regulation insieme con il rinnovo del contratto del pubblico impiego che dovrà aprirsi una trattativa a gennaio. È tutta una pagina da scrivere. Questa riforma, diciamo, ha dei contenuti a 360 gradi che vanno, mi sentirei di dire, anche ben oltre l'aspetto del lavoro, pubblico. Ci sono alcune norme che sono intanto auto-applicative, cioè che non prevedono deleghe, e che quindi entreranno in vigore non appena verrà pubblicata in Gazzetta la legge che è stata approvata oggi in Senato. Quindi, scusami, è importante questo ribadirlo, non tutto è poi delegato ai cosiddetti decreti delegati, cioè ci sono alcuni aspetti auto-applicativi. Per esempio penso a due aspetti: uno è quello del silenzio assenso che introduce sostanzialmente una certezza nei tempi del procedimento amministrativo, cioè le amministrazioni che sono coinvolte in un concerto decisionale alla fine del quale c'è l'emanazione, per esempio, di un decreto, pensiamo a un decreto interministeriale, ecco, ora sappiamo che questo concerto non potrà durare più di 30 giorni. Nel caso particolare in cui un'amministrazione debba produrre una istruttoria tecnica, si può derogare di un mese, quindi al massimo 60 giorni. Questo vuol dire che questa riforma in qualche modo contiene al suo interno una sorta di acceleratore per le prossime riforme, no? Un esempio classico che mi viene da fare è il DURC online, che abbiamo visto entrare in vigore nei mesi scorsi. Ebbene, è frutto di un decreto ministeriale che è stato emanato, diciamo, in prima fase nell'aprile del 2014. Ci è voluto circa, certo, un anno, un po' più di un anno, per vedere effettivamente operativo questo strumento che semplifica molto la dialettica amministrativa e procedurale tra le imprese e l'INPS. Ecco, con questo articolo 3 della riforma approvata oggi dal Senato, un decreto ministeriale che regolamenta un oggetto come il DURC non potrà essere emanato in più di 60 giorni. Questa tua risposta già va a rispondere ad un nostro ascoltatore che dice: la solita palude italiana, il Parlamento fa una legge e poi le lobby e i sindacati la stravolgono con i decreti attuativi. In questo caso, per alcune parti di questa legge, non sarà così. Non sarà così. Per esempio, c'è l'altra norma subito applicativa, è quella dell'autotutela dell'amministrazione. Questa, vista dal punto di vista di un cittadino o di un'impresa che hanno ottenuto una concessione oppure un'autorizzazione a costruire, significa che l'amministrazione può sospendere questa autorizzazione perché, per esempio, scopre che c'è un non rispetto di una norma, piuttosto che un errore nell'autorizzazione che è stata data, entro un termine certo, superato il quale il cittadino o l'impresa che ha avuto l'autorizzazione ha la certezza che questa autorizzazione non può essere più impugnata in autotutela dall'amministrazione, tranne nei casi si scoprano illegittimità gravi, reati, false comunicazioni, falsi in atto pubblico. Ma a parte queste fattispecie, diciamo che si introduce immediatamente una tempistica che dà certezza, diciamo, all'atto amministrativo che il cittadino, l'impresa hanno in mano per fare la loro opera, il loro cantiere, eccetera. Invece, Davide, poi proseguiamo sugli aspetti importanti, i dirigenti pubblici, il PRAE, eccetera, ma molti ascoltatori ci scrivono sul corpo forestale. Sì. Per vedere l'eliminazione di questo corpo, cosa dobbiamo aspettare? Poi molti ascoltatori si rivolgono a Foccillo, che abbiamo ascoltato poco fa l'intervista, che diceva il corpo forestale è l'unico che si occupa di ambiente. Invece molti ascoltatori ci ricordano che comunque anche i carabinieri fanno un ruolo simile. E poi Gigi scrive e dice che oggi abbiamo fatto ascoltare un sindacalista per troppo tempo, ma evidentemente per parlare poi della riforma e per non passare poi per troppo filo governativi è necessario far ascoltare anche chi dissente su questo tema. Parliamo del corpo forestale, Davide. Ma il corpo forestale sono questi 8.000 uomini e donne una delle cinque armi che avevamo. È una razionalizzazione, è stato detto in più occasioni che si tratta di una trasferimento ad altro corpo di polizia. Adesso vedremo in che modo verrà fatta questa scelta. È un decreto attuativo dell'articolo 8, quindi è un decreto che, secondo il cronoprogramma che in qualche modo ci è stato preannunciato, arriverà in una seconda fase. Noi ci aspettiamo a questo punto che a settembre ci sarà una prima ondata di decreti attuativi che riguardano in particolare cittadini e imprese, quindi gli articoli da 1 a 6, no? La cittadinanza digitale, il PIN unico, appunto la conferenza dei servizi più semplificata, i tempi di procedura per le autorizzazioni sui grandi insediamenti produttivi con procedure ridotte del 50%, poi ci sarà una seconda fase in cui arriveranno queste riorganizzazioni. Rientra questa misura in una tentativo di ridisegno dell'articolazione dello Stato sul territorio, la riduzione delle prefetture, degli uffici territoriali di governo, del corpo forestale dello Stato non dovrebbe essere nell'ambito di una semplice operazione di spending review, ma di, appunto, riorganizzazione di una forza che, appunto, verrà evidentemente accorpata ad un'altra forza, ma non è che viene meno quella funzione pubblica della dell'attenzione sul territorio. Intanto, oppure che vengono persi dei posti di lavoro. O questo. Che vengono persi dei posti di lavoro. Questo non è previsto, non è scritto nei criteri di delega. Semplicemente viene razionalizzata una funzione pubblica che riguarda la tutela dell'ambiente e verrà appunto razionalizzata insieme con l'attività di altre forze di polizia. Abbiamo l'esempio abbastanza negativo di quello che sta succedendo per le province, nel senso che non è che tutto sta funzionando bene. Naturalmente la legge 56, la Delrio, ha dei problemi attuativi non di piccolo momento che riguardano proprio il trasferimento del personale e il finanziamento di questo personale che deve essere trasferito. Le leggi che le regioni devono emanare per ricevere questo personale non sono in ritardo, c'è un problema proprio di cantiere, no? Certo. Ma in sé la razionalizzazione, insomma, non mi sembra in sé, come dire, l'idea di cancelliamo il corpo forestale, trasferiamo le funzioni del corpo forestale in un corpo diverso. Un corpo diverso. E altra domanda sempre di un ascoltatore: le municipalizzate non vengono toccate, sapete qualcosa a riguardo? In parte posso rispondere io. La Madia dice: via partecipate, usate fino a questo momento come ammortizzatore sociale. Adesso non so se sono slogan o se... Sì, qui stiamo proprio dentro una delle deleghe finali del testo, questo è proprio uno degli aspetti, diciamo, della spending review che era stata portata a termine dal commissario Cottarelli e che entra in qualche modo in questo disegno di riforma. Si era parlato di una razionalizzazione da 8.000 partecipate a 1.000, ci sarà un intervento sulle partecipate che hanno dei bilanci in rosso, ci sarà appunto l'idea di accorpare il più possibile alcune attività di società partecipate dagli enti locali e mirare al sfoltimento delle realtà che producono, oltre che una perdita, un tipo di servizio che evidentemente non è più sostenibile. Ecco. Un'ultima domanda, torniamo ai dirigenti pubblici, probabilmente è un primo passo per sfatare l'inamovibilità di questi dirigenti che fino a poco tempo fa veramente erano abbastanza intoccabili? Sì, questo è, diciamo, questo rientra in un proprio, diciamo, un secondo, forse terzo momento della attuazione, nel senso che qui si adotterà un nuovo testo unico per il lavoro nel settore pubblico e che insieme riforma anche la dirigenza. Sostanzialmente si passa da due fasce a una fascia unica e ci sarà un ruolo unico per l'amministrazione centrale, uno per le regioni e uno per gli enti territoriali, gli enti locali. Viene introdotto il criterio della rotazione degli incarichi, cioè ogni 4 anni, prorogabili solo una volta per altri 2, l'incarico dovrà essere, come dire, cambiato sì, e sì. Dovrà esserci un aggiornamento del dirigente che lo occupa. Ci sarà, si spera sia la volta buona, come dice questo certo. Governo, ci sarà una misurazione della performance di questo dirigente in questo ciclo, diciamo, di gestione della funzione amministrativa che gli è stata assegnata, e questa valutazione servirà per assegnarlo alla successiva funzione. L'idea di una mobilità regolata della dirigenza pubblica, si spera non caotica, si spera che non si fermi così come idea sulla carta, potrebbe essere una novità sì. E l'introduzione di una sorta di criterio di managerialità nella gestione della cosa pubblica. Sappiamo benissimo che questa qui è una degli aspetti della riforma più complicati. Abbiamo visto la riforma Brunetta che ha cercato di riformare la dirigenza ed è rimasta al palo. Vediamo questa volta come andrà. Ecco, però, diciamo, l'obiettivo di fondo è quello di maggiore responsabilità, maggiore affrancamento dalla dipendenza dell'indirizzo politico da parte dei dirigenti, e però anche misurazione della loro performance e in qualche modo circolazione delle competenze. Grazie, ho sempre poi dei dubbi personali su chi potrà valutare queste performance e dove andremo a finire magari con ricorsi e contro ricorsi. È un grande dubbio, tra l'altro uno dei dubbi che anch'io ho su questo aspetto della riforma sono queste commissioni di valutazione, cioè certo. L'idea che ogni 4 anni tu hai una rotazione di dirigenti dello Stato, di dirigenti delle regioni, di dirigenti degli enti locali, che in qualche modo deve essere regolata da queste commissioni di valutazione, io francamente vediamo come funzionerà. Vedremo. Grazie Davide Colombo. Piazza Affari ha chiuso il FTSE MIB a meno 1,02. Dopo meteo e pubblicità, la borsa, il commercio estero e il caso Porto Rico. Focus Economia. Di nuovo insieme, 17:38 minuti, la giornata in borsa, Piazza Affari contrastate, Milano appesantita dalle banche, perdono meno Parigi, Londra, Francoforte, impatta negativamente sull'andamento delle borse la preoccupazione per il calo dei prezzi delle materie prima. Ci concentriamo sulle contrattazioni però di Milano, lo facciamo con la collega Flavia Carletti di Radio Corre il Sole 24 ore. Ciao Flavia. Buonasera a tutti. Sì. FTSE MIB negativo, Flavia, c'è un particolare motivo, leggo meno 1,02? Sì, esattamente, Milano è stata una delle peggiori insieme a Madrid, zavorrata proprio dall'andamento delle banche che sul listino milanese sono molto pesanti come titoli. E le vendite hanno riguardato tutto il settore finanziario in generale e le peggiori alla fine della giornata sono state Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che ha perso il 2,78%, Intesa San Paolo, che ha perso il 2,61%, e Intesa è stato proprio oggi uno dei casi di borsa della giornata, perché secondo gli analisti ha sofferto del contraccolpo del collocamento di azioni da parte di uno degli azionisti, che è l'ente Cassa Firenze. Questo ente ha venduto un pacchetto pari allo 0,63% del capitale a un prezzo complessivo di poco meno di 350 milioni di euro e l'operazione verrà regolata comunque nei prossimi giorni, e comunque l'ente ha dovuto ridurre questa partecipazione in virtù di un protocollo che era stato siglato in primavera tra le fondazioni perché deve vendere la quota che supera il limite del 33% sul suo attivo, e comunque nonostante questa vendita la quota che gli rimane di Intesa San Paolo, che è del 65%, ancora lo supera, quindi probabilmente potrà essere costretta a vendere ancora. Questo per quanto riguarda Intesa San Paolo. Unicredit, che domani pubblicherà i conti, è penalizzata da un pezzo del Financial Times sulle possibili operazioni di riorganizzazione del gruppo. Esattamente, alla fine ha perso quasi l'1%, lo 0,99%, quindi ha fatto meglio di altri bancari, però come dicevi tu è stato proprio appesantito da questo pezzo che non è stato accolto positivamente dal mercato, e in questo articolo si dice che l'attuale AD Federico Ghizzoni avrebbe allo studio dell'operazione di riorganizzazione per incrementare la redditività ed evitare un richiamo da parte delle autorità europee sui fondamentali, che sarebbero meno brillanti rispetto agli altri grandi istituti europei. Questo per quanto riguarda quindi Unicredit. Passiamo ad un altro titolo che oggi non si è contraddistinto, parliamo di Generali in terreno negativo, Credit Suisse considera il titolo sopravvalutato rispetto ai concorrenti. Sì, esattamente, Generali ha risentito della giornata debole di tutti i finanziari e alla fine ha perso l'1,17%, e dopo che era andato bene nei giorni scorsi dopo la pubblicazione dei conti ed erano arrivati una serie di report positivi, oggi invece ne sono arrivati due negativi, uno in particolare proprio quello di Credit Suisse, che ha consigliato cautela perché per quanto ha giudicato solidi i risultati trimestrali, hanno indicato che il management avrebbe fornito poca visibilità sull'andamento futuro, e per questo, alla luce di questa situazione, per Credit Suisse non è più giustificato il premio con il quale trattano le azioni generali rispetto alle assicurazioni concorrenti, e quindi vedono un rialzo limitato per il titolo solamente intorno al 7%, quindi hanno detto, vista la situazione, adesso hanno consigliato appunto di essere cauti e soprattutto perché dicono che non c'è visibilità per eventi che giustifichino una performance migliore di Generali nei confronti dei concorrenti. Assolutamente. Per quanto riguarda i migliori, e adesso parliamo di Prysmian, vedo che in terreno positivo Todd's, Atlantia, Moncler e Ansaldo, ma di Prysmian, che è la migliore del Fuzimib, grazie ad un report di Morgan Stanley che contiene previsioni positive sul prezzo. Sì, esattamente. Prysmian è stato il migliore tra le blue chip, ha chiuso con un rialzo del 2,35% e secondo il mercato proprio è stato spinto da questo report favorevole di Morgan Stanley che oltre a confermare il giudizio overweight, quindi buono, ha anche portato il prezzo obiettivo da 22,5 a 23,5 euro per azione. E in più la cosa che è piaciuta al mercato è che gli esperti hanno migliorato le stime sull'utile per azione sia per quest'anno che per il prossimo. Quindi questo per quanto riguarda Prysmian, dicevamo altri migliori del Fuzimib, Todd's, Atlantia e Moncler, c'è secondo te Flavia una qualche ragione per cui il mercato premia due marchi della moda come Tod's e Moncler? Sono un po' di sedute che il comparto del lusso è comunque comprato dagli analisti e dagli investitori, perché c'era stato un momento in cui invece si temeva molto soprattutto per l'allentamento cinese, era il momento in cui uscivano anche le trimestrali, c'era un po' di timore, i titoli erano stati penalizzati, mentre invece sono un po' di sedute che invece probabilmente gli analisti hanno riconsigliato di comprare, quindi ci sono delle ricoperture. Non sono uscite oggi in particolare notizie proprio su questi titoli, però è un movimento che vediamo da un po' di giornate. Grazie a Flavia Carletti, Radio Cor Sole 24 ore. Ora lo avevamo anticipato, un altro tema che trattiamo perché ci sembra un po' di ricordare con degli aspetti simili a quanto avvenne mesi fa, prima che scoppiasse la bolla della Grecia. Possiamo quindi aprire il tema di Porto Rico, territorio degli Stati Uniti. È ufficialmente in default. Chiediamo il perché a Roberto Darin del Sole 24 Ore. Ciao Roberto. Buongiorno a tutti. Il Porto Rico si è ufficialmente in default per soli 58 milioni di dollari, che non è molto, ma tecnicamente è caduto in default e le agenzie di rating già ieri lo hanno annunciato, quindi si profila un percorso non facile, perché Porto Rico è un paese molto strano, è uno stato libero associato agli Stati Uniti, quindi appartiene agli Stati Uniti territorialmente, ma non è uno stato americano. Questo complica perché il Fondo Monetario non può intervenire e non può aiutare con un pacchetto d'aiuti Porto Rico. Ecco Roberto, resta con noi, adesso passiamo brevemente al traffico e poi torniamo su questo argomento e cerchiamo di capire perché un possedimento così piccolo degli Stati Uniti potrebbe intervenire ed inficiare sull'economia internazionale. Focus Economia. Quarantasei Focus Economia, abbiamo aperto il discorso su Porto Rico trovando e cercando di trovare delle analogie con la Grecia, con noi Roberto Darin del Sole 24 Ore. Roberto, ci spiegavi che Porto Rico è un territorio non incorporato negli Stati Uniti, ovvero un possedimento degli Stati Uniti con governatore nominato direttamente da Washington, ma si cerca comunque di tenere le economie dei due posti nettamente separati. Porto Rico ha un debito che vale complessivamente 72 miliardi di dollari, quindi cosa sta succedendo e cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi? Nei prossimi mesi nessuno sa cosa potrà succedere a Porto Rico. Ora ci potrà essere una ristrutturazione del debito, però come dicevamo prima, nonostante il default sia solo di 58 milioni di dollari, che non è una cifra esorbitante a confronto della Grecia, per esempio, che sono quasi 400 miliardi di dollari, quindi un'esposizione completamente diversa, può preoccupare perché in questo momento un fattore vagamente destabilizzante per i mercati finanziari non è auspicabile, è qualcosa di cui ci si deve guardare e ci si deve proteggere, quindi al di là dell'entità del default, è un fattore che può in qualche modo preoccupare gli operatori, tanto che già alcune settimane fa il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha detto, c'è stato un botte risposta tra lui e Jack Lew, il ministro del tesoro degli Stati Uniti, in cui si faceva un parallelo tra la crisi greca e quindi le potenziali preoccupazioni che certo ne conseguivano per l'Europa, e la crisi di Porto Rico con le conseguenze che potrebbero scaturirne per gli Stati Uniti. Un parallelo forse non proprio calzante, perché comunque la Grecia trascinerebbe con sé, come sappiamo bene, una grave crisi per molti altri paesi europei. Comunque, così non è per Porto Rico, tuttavia è un elemento che gli operatori stanno valutando, certo, con comunque, attenzione. Sarebbe comunque, Roberto, un elemento di distrazione per Washington rispetto ad altri problemi che può avere. Un nostro ascoltatore ci scrive al 349-238-6666: io non conosco nessuno che abbia comprato titoli del Porto Rico, onestamente non so che titoli possano essere sul mercato provenienti da questo possedimento, se possiamo chiamarlo così, americano-statunitense. Resta il fatto, Roberto, che comunque è un elemento di distrazione per l'amministrazione di Barack Obama, perché comunque parliamo di 72 miliardi di dollari in un momento in cui la crisi internazionale ancora si fa sentire, un paese che sta cercando di ripartire come gli Stati Uniti. Esattamente, gli Stati Uniti stanno guardando con insistenza all'Europa. Naturalmente la crisi greca è anche per gli Stati Uniti un elemento di straordinario valore, e quindi monitorano ora per ora quello che sta accadendo. La crisi a Porto Rico è qualcosa, diciamo, che di inaspettato per certi versi, perché nonostante le scadenze fossero note, si pensava fino a poche settimane fa che una soluzione sarebbe stata trovata. Invece così non è andata, e le agenzie di rating hanno conclamato il default di Porto Rico. Quindi, come dicevamo, è un elemento destabilizzante che non favorisce di certo un riequilibrarsi dei mercati finanziari, che in questo momento hanno molte grane sul tappeto. Certo, e tra l'altro, per rispondere al nostro ascoltatore che ci scriveva, abbiamo guardato rapidamente e vediamo che le obbligazioni, la maggior parte delle obbligazioni di Porto Rico è detenuta comunque da piccoli investitori locali. Comunque torneremo ad occuparci di Porto Rico, grazie a Roberto Darin del Sole 24 Ore. Grazie a voi. E adesso, lo avevamo anticipato anche nel nostro sommario, andiamo all'argomento relativo all'export, un tema molto forte per il nostro paese. La export map elaborata da SACE, gruppo finanziario attivo nell'export credit che fa capo a cassa, depositi e prestiti, e i dati dell'osservatorio Fondazione Edison GEA confermano l'ottima performance delle esportazioni delle imprese italiane. Nel frattempo, oggi e domani, una delegazione di industriali italiani è in visita in Iran dopo il raggiungimento dell'accordo sul nucleare. Di questo poi ne parleremo maggiormente domani con la delegazione degli industriali che è volata a Teheran. Per parlare di export è con noi il professor Marco Fortis, docente di economia industriale all'Università Cattolica di Milano e vicepresidente Fondazione Edison. Buon pomeriggio, professor Fortis. Buon pomeriggio. Ecco, dai dati di questa ricerca, sorprendentemente, ma forse fino a un certo punto, si evidenzia ancora una volta di quanto poi il nostro paese sia competitivo nell'export. Addirittura inopportune classifiche di alcuni prodotti è superiore alla Germania. Ci aiuta a capire un pochino come ce la caviamo nel resto del mondo? Beh, diciamo che il nostro export, come tutta la nostra economia, la nostra manifattura, è caratterizzato da, rispetto ad altri paesi, dalla presenza molto limitata di grandissimi gruppi. Ci sono paesi come la Corea del Sud che fanno gran parte delle esportazioni con 3-4 grandissimi gruppi giganteschi. La stessa Germania esporta molto con i suoi giganti. Noi invece abbiamo una struttura di capitalismo cosiddetto di medie e medio grandi imprese, il quale pur gestendo ovviamente operazioni commerciali di portata più limitata riesce a realizzare dei grandi risultati. Negli ultimi 4 anni praticamente le esportazioni italiane sono cresciute in maniera molto considerevole, di 61 miliardi, toccando quasi 400 miliardi lo scorso anno, e la bilancia commerciale complessiva è migliorata di 73 miliardi, passando da meno 30 più 43 miliardi. È soprattutto l'export manifatturiero quello che tira tutte le esportazioni ed è il surplus manifatturiero italiano uno dei soli 5 al mondo superiori ai 100 miliardi di dollari, dopo quelli della Cina, della Germania, del Giappone e della Corea. Professor Fortis, questo è un passaggio che ha sottolineato ieri anche il Presidente del Consiglio Renzi proprio in Giappone. Ascoltiamo allora le parole del Premier. Stamani mattina abbiamo anche incontrato una comunità significativa, rilevante, di imprenditori e manager, di businessmen. Italia e Giappone sono 2 tra i 5 paesi che hanno un export manifatturiero superiore a 100 miliardi di dollari. Dunque hanno una potenza e una forza nella esportazione dei propri prodotti che è straordinaria. È ricchissimo l'interscambio dal punto di vista di valori oltre che di condivisioni azionarie. Queste le parole del Presidente del Consiglio Renzi, lo diceva anche il professor Fortis, nostro ospite. L'Italia è uno dei 5 paesi al mondo, insieme a Cina, Germania, Corea del Sud e appunto Giappone, ad avere un surplus commerciale superiore ai 100 miliardi di dollari. Vogliamo ricordare, professor Fortis, quali sono i settori che ottengono maggiore successo all'estero? Sono prodotti comunque con un apporto maggiore di tecnologia e dove si evidenzia maggiormente il Made in Italy? Beh, direi che rispetto a 20-25 anni fa, quando il nostro export netto appunto superiore ai 100 miliardi di dollari oggi, allora era fatto prevalentemente di moda, di alimentari e di prodotti per l'arredo e la casa, oggi questi prodotti rimangono tutti fondamentali, naturalmente, perché sono una bandiera anche dal punto di vista dell'immagine, della qualità, del design dell'Italia. Ma a questi si sono aggiunti una straordinaria presenza del nostro paese nella meccanica e anche nei mezzi di trasporto, perché certo, oltre agli autoveicoli abbiamo oggi elicotteri, navi da crociera, yacht di lusso, motociclette, biciclette, tutti i settori dove primeggiamo. E in più c'è un grande boom della farmaceutica con un export che è stato a livello mondiale, quello negli ultimi 4 anni, cresciuto di più in valore assoluto. Quindi sono risultati che mettono in evidenza un'Italia che non è più soltanto design, non è più soltanto moda, ma è diventata sempre più anche tecnologia e prodotti ad alto tasso di innovazione. Ecco, professore, prima leggevamo una notizia secondo la quale, sempre in tema di export, si sottolineavano questi eccellenti dati per l'industria italiana, ma vi era poi comunque una parte di questo export che in realtà non veniva materialmente fatto nel nostro paese. Vi erano percentuali di prodotti che evidentemente vengono poi assemblati da noi o comunque la materia prima e quantomeno nelle prime fasi della manifattura fatte all'estero. È un dato questo che lei mi conferma? Beh, tutti i paesi oggi nell'ambito della globalizzazione hanno una forte integrazione verticale fatta anche di relazioni, di scambi con l'estero, quindi vi sono molte, oltre che le materie prime, vi sono anche molti semilavorati che vengono prodotti in altri paesi. Tuttavia l'Italia, come dimostrano anche studi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, è uno dei paesi che ha maggiormente conservato la produzione nel nostro paese rispetto ad altri che hanno una maggiore tendenza a ridurre le produzioni autoctone e a sviluppare di più i canali commerciali. Quindi noi abbiamo ancora una fortissima presenza manifatturiera sul territorio, così come del resto anche la Germania in Europa, mentre vi sono altri paesi che hanno molto ridotto la produzione manifatturiera e sempre più tendono a diventare paesi dove si fanno solo le fasi finali della produzione e si importano quasi prodotti finiti. Un'altra curiosità, vi sono alcuni, in alcuni paesi, se non sbaglio 20, leggendo comunque questo report, laddove l'Italia sopravanza la Germania. Di quali prodotti stiamo parlando in questi 20 paesi? Dunque, in realtà qui bisogna distinguere tra l'analisi fatta dalla SACE con la sua export map, dove evidenzia che vi sono 20 paesi in cui l'export italiano supera quello della Germania, certo. Ma a mio avviso è molto più significativo guardare i dati per prodotti, perché chiaramente la Germania è così grande che batte quasi tutti i paesi in tutti i mercati, perché esporta 3 volte noi in valore assoluto, quindi non ha molto senso andare a vedere in quanti paesi battiamo la Germania, ha molto più senso vedere in quanti prodotti battiamo la Germania. E sotto questo profilo nostre analisi hanno evidenziato che su circa 4.000 prodotti manifatturieri, escludendo cioè l'energia e i prodotti agricoli che sono tantissimi, certo. E molto dispersi, concentrandosi solo sui prodotti trasformati, manufatti, non alimentari, su circa 4.000 prodotti l'Italia è il secondo paese che batte più volte la Germania dopo la Cina per bilancia commerciale. Almeno in alcuni settori l'Italia è davanti alla Germania. Mi dispiace chiudere qui questa puntata. Ringrazio il professor Marco Fortis. Per oggi è tutto. Un ringraziamento a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, Valerio Rocchetti e Pietro Lacorte in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta.